Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Nonostante il programma scoppiettante che abbiamo raccontato negli ultimi giorni e che vede protagoniste negli USA non meno di 6 grandi compagnie private nello sviluppo della prossima generazione di velivoli spaziali, oggi è a Oriente che dobbiamo guardare per trovare la capacità operativa di mandare esseri umani nello spazio. Alla Russia, che offre a caro prezzo servizio di taxi verso la Stazione Spaziale Internazionale, Europa e Stati Uniti, e alla Cina col suo programma spaziale fondamentalmente non del tutto ma insomma chiuso alle collaborazioni e non solo da parte cinese ma molto ambizioso. Ed è da qui che vogliamo dare inizio a questa quinta puntata dello speciale dedicato alla nuova corsa allo spazio. Ma per aiutarci a capire com'è lo spazio visto da Oriente, non ho dovuto invece io guardare lontano, perché il nostro Gigi Donnelli ha una storia intanto di inviato in Russia, da sempre si occupa anche di spazio anche qui su Radio 24, quindi benvenuto Gigi. Grazie, un saluto a tutti voi. Allora, io so che tu hai una notizia per noi e penso che sia anche il modo migliore per cominciare. Sì, c'è una notizia che in realtà l'ha data la stessa protagonista. Imbarcandosi su un aeroplano qualche settimana fa, ha detto: vi saluto, io vado in Cina, comincio a studiare il cinese. Ora, se l'avessi scritto io ovviamente avrei detto vabbè, buon viaggio. Ma se lo scrive Samantha Cristoforetti, che non è solo la prima donna italiana astronauta, ma è davvero una figura importante anche nel progetto europeo dello spazio, ci racconta qualcosa. E cioè ci dice che la Cina sta rapidamente salendo anche nella scala internazionale della considerazione per quanto riguarda lo spazio. E no? Che l'Europa vuole parlare con la Cina. Cosa che finora è avvenuta molto poco. Allora, quali sono oggi le, brevemente, insomma, capacità attuali della Cina in fatto di spazio e anche i principali obiettivi del programma spaziale cinese? Ora, naturalmente gli obiettivi sono sempre in parte misteriosi e quindi tali restano, perché attengono quel mondo militare, certo, che è, come dire, la benzina, il carburante di tutte le grandi vicende. Sappiamo che siamo alla fine della prima casa orbitante cinese, stiamo attendendo i secondi lanci, stazione spaziale cinese. Che stazione spaziale cinese, che a questo punto, tra non molto peraltro, secondo quanto viene indicato, piomberà da qualche parte. Ecco, quando dico da qualche parte, forse ci ricordiamo, almeno insomma alcuni di noi, cosa accadde con la seconda stazione spaziale sovietico-russa. In quel caso finì nel Pacifico con una lunga planata seguita a livello mondiale. Ora i cinesi sembra, intanto il Pacifico è un terzo della superficie, quindi probabilità sono 30%, però insomma anche loro hanno lasciato davvero un po' di dubbio sul gran finale di questa questione. Di certo siamo arrivati alla fase finale. Ora, fase successiva, dove si manifesta una grande potenza emergente che è già emersa. Sì. Ecco, se pensiamo a quello che fu la grande disfida tra Washington e Mosca, possiamo ipotizzare che la Cina abbia i suoi desideri e le sue ambizioni. Io penso sempre accanto poi al senso pratico. Il senso pratico sono comunque ancora i vecchi, mi viene da dire, missili balistici intercontinentali, i sistemi delle armi, appunto, che stanno ormai purtroppo contaminando anche l'atmosfera terrestre e lo spazio. E sul fronte invece dell'esplorazione, del desiderio, dell'ambizione, insomma, la Luna da una parte, Marte dall'altra. C'è un percorso che è stato codificato, una nuova stazione spaziale in arrivo, sonda robotica a breve sulla Luna, equipaggio umano nel 2025, si parla cinese, no? Questi sì, sono tempi, appunto, sono quei tempi che sono, a mio avviso, hanno preso con le pinze. Non dimentichiamo che fine hanno fatto i vari recenti progetti americani per il lancio e, appunto, a cominciare dalla Stazione Spaziale Internazionale, per cui ancora gli americani si devono servire di altri, come hai detto. Veniamo per un attimo alla Russia invece, che appunto oggi è ben felice di fornire il passaggio agli astronauti americani ed europei. Quali alla sono grande, i programmi direi della Roscosmos e quanto ti sembrano anche concreti? Oddio, concreti lo sono senz'altro, visto che comunque hanno... Soprattutto sono concreti. Stiamo parlando di un paese che ha una tradizione davvero importante e che, non dimentichiamolo, quando eravamo ormai negli anni 90, si diceva bene, le i lanciatori, le Soyuz, insomma, sono pronte al pensionamento da 7 anni, dunque 2011 l'ultimo shuttle, a oggi se si va in orbita è solo grazie alle Soyuz. Come dicevi, si paga caro, 80 milioni A a biglietto. biglietto. Gli Stati Uniti hanno recentemente, li comprano a pacchetti, 5 alla volta perché c'è uno C'è lo sconto, quindi sconto. se volete... All'inizio costavano meno, forse vi ricordate i primi turisti spaziali. Comunque oggi sono 80 milioni a viaggio e questo è già un punto. Dall'altra parte segnalerei due cose. È iniziato il trasferimento pratico, tra virgolette, da Baikonur a Vostochny. Del Vostochny, cosmodromo, il quindi del. cosmodromo, quindi Baikonur, mitico luogo nella steppa del Kazakistan, straordinario, creato quando appunto il Kazakistan era un paese non nell'orbita, all'interno Faceva parte dell'Unione dell'Unione Sovietica, Sovietica? ma dichiaratamente loro hanno altre basi di lancio, come sappiamo, numerose, ma hanno comunque ritenuto opportuno aprirne una meridionale, per così dire, che è Vostochny. Di nuovo ci riporta in quel confine della Mur dove Cina e Russia, Russia. Russia e Cina condividono un sacco di interessi. Vostochny è operativa. Ci sono programmi anche qui di mandare astronauti sulla Luna, Sì, astronauti su no, Marte, soprattutto ce l'hanno Marte, tutti. c'è anche questo importante Marposta. Allora, i russi da questo punto di vista le hanno già fatto un po' tutto, non so se vi ricordate i 5 giorni chiusi in una Sì, stanza. 500 giorni, 500, sì. 500, cosa ho detto? 5, 5? sì, È 5 un po' 500. poco, 500 giorni, tra cui anche un ragazzo italo. Colombiano che appunto fu tra i selezionati per stare 500 giorni chiusi di fatto ai margini della città delle stelle di Sì, una Mosca per simulare. simulazione. Ecco, Mars Post è uno dei tanti progetti russi interessanti, sembra che prenda corpo. L'idea è essere pronti intorno al 2022, quindi stiamo parlando di pochi anni, per ricreare una stazione. Di fatto un orbiter intorno a Marte e da lì costruire la colonizzazione. Come sappiamo tutti, anche gli allunaggi si basavano sulla presenza, no, di una base Orbitante. piccola, ma era pur sempre una base orbitante. Ecco, adesso l'idea russa è cominciare a costruire quella e poi passare alla colonizzazione del pianeta rosso. Dunque, Gigi, ci sono 9 paesi con capacità oggi di lancio autonomo, più o almeno altrettanti europei attraverso l'ESA. Programmi spaziali concreti sono 3 paesi forti: Russia, Cina, Stati Uniti, però un po' tutti sulla carta ne hanno. Quale potrebbe essere un nuovo competitor emergente dei prossimi anni, realisticamente? Ma francamente io realisticamente non vedo nessuno che possa affiancare quelli che abbiamo detto. Forse l'eccezione potrebbe essere proprio l'Europa. Perché, come sappiamo bene, l'Europa è presente in tutta la storia e nello stesso tempo diciamo che ha alcuni, come dire, tasselli, mancanti. Se rimaniamo nell'ambito esplorativo, l'Unione Europea, proprio mi riferisco quindi all'Agenzia Spaziale Europea, ha tutte le carte per trasferire il suo formidabile know-how in un grande progetto esplorativo. Certo, manca un piccolo dettaglio, che è quello della politica estera comune, della fiscalità comune. Stiamo parlando di una grande quantità di E dei soldi. soldi, perché il budget dell'ESA è 4-5 miliardi, quindi quello che hanno 2 operatori privati americani oggi, Assolutamente un po' sì, più ma di. non il budget dell'Europa, perché non dimentichiamolo che siamo, come Unione Europea, la prima economia del mondo. Sono d'accordo con te, Gigi. Ci possiamo fermare qui. Grazie a tutti. Grazie. L'appuntamento con Smart City torna lunedì. A voi tutti, buon fine settimana.